disdegno a bambo e di miravollo sotto l'insegna io passo di età. Con le stelle l'alta torre di Babele, sì.